Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Ottava puntata. Ingrid si era distesa sul letto di Montalbano. Aveva addosso un grande asciugamano che la copriva assai poco. Montalbano, da un pensile del bagno, aveva preso un tubetto di pomata e un rotolo di garza. Scusami, ma non riesco a stare in piedi. No, hai fatto bene. È questo? Mm. Fai vedere? Sì. No, non dovrebbe essere grave. Nel movimento, i minuscoli slip di lei fecero capolino e anche un seno che pareva pittato da un pittore che de femmine ne capiva. Montalbano capì che in Ingrid non c'era nessuna volontà di seduzione e gliene fu grato. Sai una cosa, commissario? Tu sei il primo gentiluomo che incontro da un bel po' di tempo. Sì. Seduta accanto a Montalbano, sul terrazzino affacciato sul mare, illuminato dal riflesso della luna, Ingrid continuava il suo lungo racconto al commissario. Lunedì scorso mio marito è stato svegliato da una telefonata che non ho capito, aveva troppo sonno. Si è vestito in fretta ed è uscito. 2 ore dopo è tornato e mi ha chiesto dove era finita la collana. Io non potevo rispondergli che era nella borsa a casa di Silvio. E così gli ho detto che l'aveva persa da un sacco di tempo e non avevo avuto il coraggio di dirglielo per paura che si arrabbiava. Allora mio marito mi ha fatto firmare un foglio bianco. Mi ha detto che serviva per l'assicurazione. E la storia della mannara? Come è venuta fuori? Mi ha raccontato che Rizzo gli aveva detto che per l'assicurazione ci voleva una spiegazione più convincente. E gli aveva suggerito la storia della mannara. Mannara? Vuol dire mandria. Un pastore portava lì a pascolare le pecore. A me quella storia non mi convinceva. Mi pareva troppo inventata. Ma Giacomo mi ha detto che io sono già una puttana per tutti e quindi tutti avrebbero creduto che mi ci ero fatta portare. Ho capito, ti volevano incastrare. L'uparello è morto alla mannara come una donna che l'ha coinvolto ad andare lì. Volevano far credere che questa donna sei tu. Tu hai la borsa, tu hai la collana, tu hai i vestiti a casa di l'uparello, tu sai fare la discesa del canneto. Ho capito, no, non è possibile che Giacomo sia d'accordo, non ci credo. Può darsi che l'abbiano costretto a coinvolgerti per proteggere una persona che gli sta più a cuore di te. Proteggere un'altra persona da che? Silvio è morto mentre faceva l'amore, non è colpa di nessuno. Proteggere dallo scandalo, Ingrid, non dalla legge. L'uomo che portavi nella garçonnière di Luparello era tuo suocero, vero? È la cosa più brutta che mi è capitata da quando sono qui. Non c'è bisogno che mi racconti di particolari. 2 anni fa mio suocero doveva andare a un congresso a Roma. All'ultimo momento mio marito non poteva venire, ma ha insistito perché io partissi. L'ultima notte a Roma lui è entrata nella mia stanza. Sembrava pazzo. Si è inginocchiati ai miei piedi. Diceva che non riusciva a dormire al pensiero di avermi lì vicino, sola. Sono andata con lui per farlo stare tranquillo e perché avevo paura. In aereo, nel viaggio di ritorno, piangeva. Mi ha promesso che non succedeva mai più. Invece poi è successo ancora. Mi toccava appena poteva, rischiando di farsi vedere da sua moglie, a Giacomo. Per questo ho pregato Luparello di prestarmi la sua casa. Ma che hai? I tocchi sempre lì dietro. Ah, sì. Non lo so, mi fa male. Deve essere quando siamo scesi per il canneto. La tua caviglia come sta? Meglio, grazie. Che ridi? Sembriamo due ricoverati in ospedale. Te la senti camminare? Se fosse per me resterei qua fino a domattina. Vuoi che ti faccia un massaggio al collo? Sono brava, sai? No, grazie. Massaggio al collo no, eh. L'auto rossa a sogliola di Ingrid era ancora ferma al posteggio del bar di Marinella. Si vede che l'avevano stemata troppo impegnativa per rubarla. Non ce n'erano tante in giro a Montelusa e provincia. Grazie, Salvo. E te che? Lasciata Ingrid, Montalbano ritornò a Capo Massaria. Dalla macchina pigliò la borsa a sacco di Ingrid, ma anche la pistola. In casa non c'era nessuno, né c'erano tracce che qualcun altro ci fosse stato dopo di lui. Aprì la vetrata del salone, guardò sotto. In quel punto Capo Massaria si sporgeva sul mare come la proa di una nave. Lì sotto l'acqua doveva essere fonnuta. Zavorrò la borsa a sacco di posate d'argento e di un pesante posacenere di cristallo. La fece roteare sopra la testa, la scagliò fuori. Non l'avrebbero ritrovata tanto facilmente. Poi, dall'armadio della stanza da letto, pigliò tutto quello che apparteneva a Ingrid e uscì, dirigendosi verso casa. Da quand'era che non passava una nottata di sonno come Dio comanda? Ora c'era questa minchia di dolore dal re nel cozzo che non gli dava requie. Accese la luce, erano le 4. Sul comodino c'erano ancora la pomata e il rotolo di garza che gli erano serviti per Ingrid. Li pigliò davanti allo specchio del bagno, si spalmò sulla nuca tanticchia di pomata e poi con la garza si fasciò il collo. La fissò con un pezzo di sparatrappo adesivo. E fu allora che un flash accecante gli esplose nel cervello e decise di tornare alla Mannara. Accanto alla trave fradicia, dove aveva trovato la borsa di Ingrid, si mise a tagliare quello che l'altra volta gli era parso un oggetto indefinibile, una specie di manecotto di raccordo per tubi, e che ora chiaramente individuava. Un collare anatomico, come nuovo, anche se si capiva che era stato usato. Si alzò, pigliò il collare, tornò al commissariato. Ci sono novità? Sì, ha telefonato il figlio per l'ingegnere Luparello. Ah. Dice che suo cugino Giorgio questa mattina non potrà venire. Perché? Ah, pare che abbia passato l'intera notte fuori di casa, è tornato stamattina presto. Dicono che era in condizione da fare pietà. Ah. Gli hanno fatto prendere un sedativo e ora sta dormendo. Commissario! Oh! Commissario! Hanno ammazzato l'avvocato Rizzo. Come hanno ammazzato? Gli hanno sparato. Hanno dato il corpo in contatto a San Giuseppe Pulso. Vado io. Commissario, posso avvertire mio cognato il giornalista? Lungo la strada per Montelusa venne fermato due volte, prima da una pattuglia di alpini e poi da un'altra di carabinieri. Il peggio venne sulla via per San Giuseppuzzo, praticamente fra sbarramenti e controlli impiegò 3/4 d'ora per fare manco 5 chilometri. Sul posto c'erano il questore, il colonnello dei carabinieri, tutta la questura di Montelusa al completo. Jacomuzzi si addonò di Montalbano e gli corse incontro. Un'esecuzione in piena regola, spietata. In quanti erano? A sparare è stato uno solo. Il povero avvocato è uscito dal suo studio alle 6:30 e si è diretto verso Tabita. Aveva appuntamento con un suo cliente. Era da solo, questo è certo. Poi, strada facendo, secondo me, ha fatto salire qualcuno che conosceva. Io mi sono fatto idea che questo è un delitto di mafia. Perché un delitto di mafia? Avrò fatto qualche sgarro. Ora che si sentiva più forte dopo la nomina dell'altro giorno, questi non l'hanno perdonato. Come fai a essere così sicuro? Per come l'hanno ammazzato. Prima l'hanno massacrato a calci, poi l'hanno fatto inginocchiare e gli hanno sparato alla nuca. L'arma che cos'era? Pasquano dice che a occhio e croce, considerati fuori d'entrata ed uscita, e il fatto che la canna era premuta sulla pelle, dovrebbe trattarsi di una 7,65. 7:65. Era una supposizione, ma così labile che se si fosse fermato un attimo a ben considerarla, si sarebbe lestamente vanificata. Teneva l'acceleratore al massimo e a un posto di blocco rischiò di farsi sparare addosso. Giunto a Capo Massaria, schizzò dall'auto, aprì con facilità il cancello e la porta d'ingresso, corse nella stanza da letto. Nel cassetto del comodino la pistola non c'era più. Si insultò violentemente, era stato uno scionzo. Dopo la prima volta era tornato altre due volte in quella casa e non si era mai preoccupato di controllare se l'arma era sempre al suo posto. Istintivamente sedette uno schiaffone e si sedette sul letto sconfortato. Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Pietro Biondi, Isabel Solman, Peppino Mazzotta, Davide Loverde, Giovanni Guardiano. Musiche originali di Franco Piersanti. Realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.